24 mattino. 18 minuti 20 secondi, ne ho anticipato uno. È giunto il momento dei cani e dei gatti. Oscar Giannino oggi ha qualcosa, un piglio più che risorgimentale, quasi spirituale. Sembra un Mahatma che da Milano ci guarda con una sciarpa al collo e esprime spiritualità. E del resto, cari ascoltatori, caro fratello, ieri ho appreso dalle parole del Papa che San Francesco è come Buddha, e quindi è un passo avanti verso l'ecumenismo e il relativismo. Però attenzione, caro Papa. Cioè, stai dando una bacchettata a Francesco? Io non mi permetterei mai. Ma quello apriva grandi orizzonti al dialogo interreligioso. Dice, attenzione, relativistico. No, relativismo, io dico, sei Buddha uguale San Francesco, insomma, è un passo verso il relativismo. No, io non do lezioni. Io sono felice del fatto che si fa un passo avanti verso comprendere che gli oltranzismi, gli estremismi, sfarinano di fronte al fatto che poi nella religione vi sono gli aspetti comuni. Li leggo antropologicamente, sono felice di questo. Capisci che sono solo leggermente ironico, ma non mi permetterei mai di criticare. Come hai visto, c'è chi insorge dicendo: oh Papa, ma come sei Buddha? Sì, qualcuno ha detto pure che è l'anticristo. Ho letto, no, 800 24 00 24, perché il mondo è pieno di pazzi. 349 238 6666 per i vostri sms. Ci sono già un po' di insultini arretrati, qualcuno lo devo leggere. Per esempio quello di un nostro ascoltatore che mi dice: come ti permetti, e questo è riferito a me, di considerare un criminale di guerra un soldato, e si riferisce al nostro generale suicida. Allora, il generale croato non si è limitato ad abbattere un ponte, cosa che però è molto importante sul piano dei simboli, perché era il ponte della fratellanza, della conciliazione, del dialogo. È anche processato per aver non impedito ai suoi soldati di rastrellare, sulla base di criterio della pulizia etnica, civili inermi, donne e bambini. Questo per chiudere la discussione su Slobodan Praljak. Cosa hai da dire oggi, Oscar, proprio in apertura? Scusa, qualcuno ci dice: ma perché non ricordate la scadenza che è stata prorogata della rottamazione? È una settimana che ne parliamo. Siamo il telefono amico della rottamazione esattoriale. Rottamato di questo, da questo punto di vista, effettivamente. No, ripetiamolo ancora, vai. Ripetiamo. 7 dicembre, sì, rottamazione è riaperta anche per coloro che non avevano partecipato neanche al primo tour, per fino così a dire. Maggio. Quindi è aperto fino a maggio. Potete rottamare, rottamatevi in pace e moltiplicatevi. Finché c'è rottamazione esattoriale, c'è speranza. Lo stato da questo punto di vista. Allora, io voglio segnalare tra le cose che mi hanno colpito stamattina, oggi, due. Cioè, uno è che Alemanno e Storace vanno con la Lega. È vero. Devo ammettere, veramente. E la seconda. Anche l'UGL? Sì, appunto. Salvini, insomma, sta mietendo, acchiappa. Del resto, ha insistito parecchio da questo punto di vista. E poi ci sono anche lì, evidentemente, incomprensioni personali di lunga data con la Meloni da parte di chi fa questa scelta, venendo invece da un mondo che si. E poi la prospettiva è che resta Gentiloni fino a maggio. Prorogazzi. Capito? Allora, questa cosa no, qui. No, anche fino all'estate potrebbe, esatto, accadere. Anche, diciamo, potrebbe durare fino a che non si fa questa volta. Magari essere confermato anche dopo le elezioni, va, diciamolo, se è così complicato fare un governo. Capisci? Allora, questa prospettiva in realtà è una prospettiva che, detta così, descrive l'impotenza italiana, un nuovo passo verso poi dopo le elezioni e reiterate elezioni alla spagnola. Sì, ma dall'altra, meglio Gentiloni che il vuoto, che è un grande rischio. Ecco, questo voglio dire. Cioè, Minniti garantisci per noi, ecco, per così dire. Minniti garantisci per noi, a molti non piacerà, ma ai mercati potrebbe piacere. Bene, allora ricordiamo che fra poco arriva fra di noi l'onorevole Di Battista per parlarci del suo libro, della sua scelta di abbandonare la politica, di dove vanno i 5 Stelle, e ce n'è sicuramente da discutere. Oscar, tu hai letto il libro di Battista? Il libro di Battista l'ho scorso, ma non letto con attenzione. Dichiaro la mia inadempienza, tento di leggere tutto, ma quello non era in cima alle mie priorità. E lo so, non ci posso fare niente, ma preferisco essere sincero. No, no, ma l'ho letto io per te, ci dividiamo il lavoro equamente. E invece hai letto sul tempo La confessione di Fini, quasi drammatica, letteraria. Ma, cioè dice, in un primo tempo ho mentito perché era l'unico modo di salvare il rapporto con le mie figlie. Ma... non ci credi? No, io non faccio questione di crederci o meno. Per cosa dire, posso avere rispetto per il travaglio, però un leader politico dall'inizio su una vicenda che riguardava una donazione, quella comunità morale, morale sì, perché chi la conosce è una comunità di valori, non ho detto che è la mia morale, ma che rappresenta l'eredità che aveva raccolto dal movimento sociale, a cui deve tutto ad Almirante nella sua carriera politica, di donazioni al partito. Per tutto questo, che lui sapeva meglio di me, di te e di chiunque altro, non doveva commettere quell'errore. E non può oggi credere, proprio perché lui sa di che cosa parlo, di riscattarlo con questa intervista. Quindi è un errore tragico che secondo me gli ha levato per sempre la credibilità. Chiunque ha diritto di sbagliare, figuriamoci, e chiunque ha diritto di chiedere poi un riscatto. Ma in politica, quando si viene meno a quel tipo di valori che nella sua comunità erano così forti, si viene buttati fuori e non si recupera l'onore. Questa è la mia impressione, non so come la pensi tu, perché tu quel mondo lo conosci bene, sì, avendone scritto, certo. No? Avendo tante volte. Come no? Certo, ho fatto proprio un capitolo su Fini. Lui dice: Elisabetta mi ha confessato solo di recente che insieme a fratello Giancarlo nel 2008 avevano deciso di comprare la casa di Monte Carlo. Non l'ho riferito nel primo interrogatorio per timore di ripercussioni drammatiche e laceranti che tali affermazioni avrebbero potuto avere nel mio ambito familiare, soprattutto sulle mie figlie. Ma insomma, drammi. Allora, ricordatevi 8 25 7 secondi 00 8 00 24 00 24, se volete parlare dei crimini di guerra, dell'aggressione degli skin, perché questa è l'ultima cosa su cui secondo me Oscar deve dare il suo parere. Ma qui io... è un altro giudizio ribaltato, quello che ho detto prima, cioè apparentemente azione che si è svolta senza un'aggressione fisica, ma in realtà una violenza terribile. Se si pensa che si può entrare in una riunione altrui, fare leggere un comunicato peraltro farneticante e imporre questo agli altri, addirittura gridandoli in faccia il proprio disprezzo, secondo me si commette un errore drammatico. Rivela però innanzitutto, prima ancora di eventuali violazioni, legge, non legge, eccetera, rivela il fondamento su cui la declinazione di questa terribile parola, terribile, perché in nome di questa sono morte centinaia di milioni di persone. Quale? Ed è collassata la filosofia occidentale alla fine dell'Ottocento. Patria, no? Questa cosa diventata tagliente, simbolo di esclusione, simbolo traditori di... e la patria. Ecco, questa cosa che in Italia ha iniziato di nuovo in questi anni a mietere consensi trasversali, lì si vede la povertà della sua declinazione culturale. Quella è la cosa che mi colpisce di più, lo sguardo smarrito di questi rasati col giubbettino che incespicano nel... parlare di... Beh, gli enjambements, detto i questo, cosiddetti a capo che i bambini delle elementari faticano a cucire, no? Quando c'è così può sembrare una cosa intrisa. Voi siete traditori della patria. Ecco, sentiamoli. Soloni dell'immigrazionismo ad ogni costo, incapaci di vedere che la loro logica malata sacrifica i popoli di tutto il mondo e tutti coloro che questi popoli mirano a sostituirli con non popoli. Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. Fermiamo l'invasione. Ora potete riprendere a discutere di come rovinare la nostra patria. Comunque, Soloni della patria. Non sottovalutiamo, dico una cosa terribile che fatta apposta per suscitare l'arrabbiatura. Quelli come il generale che si è suicidato e che credono di recuperare onore come hanno fatto i nazisti suicidandosi e sottraendosi al cappio che meritavano, ecco, sono fondamentalmente intrisi della stessa cultura che abbiamo visto incertamente declinare dai ragazzini rasati ieri. Non commettiamo l'errore di non capire questa roba qua, che è la radice del peggio, che l'Occidente ha regalato nel Novecento a tutto il mondo con centinaia di migliaia di vittime. E possiamo considerare quei ragazzi inconsapevoli, vittime, quel che volete, però sanno quello che fanno, e se non sono in grado di capirlo, questo non li esime da colpe terribili. Ma come, quando lo fanno i Notav, i No Global e quelli di sinistra non si dice nulla? No, io veramente ho sempre condannato qualunque manifestazione di violenza, qualunque intemperanza, anche verbale, qualunque negazione della libertà altrui, quindi proprio sbagliate indirizzo. Noi siamo equiferoci, contro, cioè il paese dell'equidistanza, del cerchio bottismo, noi siamo equiferoci contro i citrulli di ogni bandiera e colore. Lasciami dire che io ho tuttato anche con minor polemica, ma altrettanto in compressione, per la conferenza che ha tenuto il Re De Luca in un liceo di Lecce l'altro ieri, invitando a sabotare la TAV, dicendo dovete farlo, potete e dovete farlo, perché a me tanto mi hanno incriminato ma poi mi hanno assolto perché non è violenza. Io dico pensa un po' se questo è il messaggio da dare ai studenti di Lecce. Però fammi dire una cosa: ieri l'Italia è riuscita nell'indifferenza generale a fare una cosa giusta, cioè a respingere la frontiera, a respingere in Giordania Leila Khaled, terrorista palestinese responsabile di dirottamenti negli anni 70, atti di una violenza inusitata. Stava venendo in Italia, invitata anche da De Magistris, con De Magistris, non da De Magistris, a fare delle conferenze a Napoli. Ecco, a proposito di violenze di tutti i tipi a cui dire no, per fortuna che l'abbiamo rispedita a casa. Allora, Virginio in attesa per una chiamata, noi pubblicità e torniamo brevissimi. Mattino 8:33 minuti 26 secondi e ci arrivano tante critiche per quello che abbiamo detto sulla irruzione del fronte veneto Skinheads. Io non capisco perché. Qualcuno dice: fammi un esempio di cosa dirai quando accade lo stesso nei centri sociali. Te lo faccio sul passato. Vai su Google, cerca Telese, un gruppo dei centri sociali voleva impedire la presentazione di un fumetto su Ramelli a Bologna, ho scritto una pagina contro perché idiozia pura. Ah, qualcuno dice: caro Giannino, che ti vengano a sfondare l'appartamento, il garage. Già fatto. Anche le automobili. Già fatto. Quando? Forzata non la porta detto di casa. No, perché non faccio cose pubbliche, però ho regolarmente denunciato. Sì, ma quale sarebbe la relazione già fra fatto quello che tu dici su questi? Non è che quelli del fronte Skinheads, facendo l'irruzione nel centro dei volontari che aiutano gli immigrati, impediscono che ci siano furti a casa Giannino. Quindi è totalmente demenziale. Proprio, cioè, la logica poi salta comunque qui. Vi faccio notare, chi fa paragoni questo e quello, come al solito relativizzate, capite? Cioè avete una reazione diversa a forme di violenza che sono analoghe e credete in questa di vedere negli altri, ma è perché voi ragionate così. Interrogate, davvero lo dico, mica vi sto criticando o scomunicando, ma questo tipo di critica, la prima a cui ha risposto Luca, quella rivolta a lui dicendo «Ah, però non lo dici per gli altri», rivela come funziona la vostra di testa che fate questo rilievo, perché giustificate una parte sull'altra certo, accusate gli altri di fare la stessa cosa all'opposto, ma è la radice dell'errore invece ragionare così. Vabbè. Non è la legittimazione, è ancora questo però ragionante. Ma se oggi in Italia succedono cose come l'irruzione dei militanti estrema destra, come questo è dovuto al fatto che da 5 anni in questo paese è nelle mani di incapaci totali che hanno sgovernato l'Italia. Sì, ma allora basterebbe avere un cattivo governo per legittimare qualunque cosa, appunto, è pericoloso. Roma, dai, però c'è. Filippo firma e quindi è già una cosa importante, firmate i vostri messaggi e noi diciamo non basta, non ci sono alibi che spiegano qualcosa che non ci piace. Virginio da Como. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti alla vostra trasmissione. Grazie. Telefono da Como, ma per un altro problema, se posso. Prego. Io vorrei sottoporvi questo fatto. Mia moglie, insegnante statale in pensione, dal 1 settembre 2015, dopo 42 anni di servizio, non ha ancora percepito una lira di TFR. E questa è una follia. Come mai? Le hanno detto dopo 2 anni, passati 2 anni, nulla. Hanno prorogato a 2 anni e 3 mesi. Sono passati 2 anni e 3 mesi. Con l'INPS non si riesce, è proibito parlare al telefono. se io chiamo l'Inps di Como, cosa le rispondono? No, le girano il numero verde di Roma. Al quale cosa le rispondono? E al quale, con una grande arroganza, le dicono di aspettare, di aver pazienza. Incredibile, queste sono le storie. Guardate che capito, questo... non il centro che aiuta gli immigrati, queste sono le cose incredibili. Fate l'irruzione al numero verde. E tanto che detto, dopo 42 anni di servizio, puoi immaginare quant'è la liquidazione. I due calcoli sono subito fatti. Gli hanno detto che le daranno, dopo 2 anni e 3 mesi, le daranno 50.000 euro il massimo, il resto arriverà dopo un anno o due. A rate. Ecco, ma io dico, ma dove erano i sindacati allora? Dove sono anche oggi? E su questo, voglio dire, lei ha provato a chiedere il supporto di patronati, sindacati? Si è rivolto a qualcuno? Ma ha detto che è legge, ha detto che la legge è così. No, ma Luca, non, non crederai, vero, che quello che drammaticamente ci espone il nostro ascoltatore di Como sia l'eccezione? No, è tutta Italia. Esattamente, cioè, no, a 2-4 mesi, devo dire, io ho avuto un'esperienza quando è morto mio padre con la reversibilità, devo dire che con un po' di fatica ci si è arrivati, e quindi ho frequentato in quel periodo, ho sentito di molte persone in fila, 2 anni e 4 mesi per avere la prima tranche, che poi di fatto questo è per la liquidazione, a me sembra tanto. Figurati, forse... qui invece stiamo parlando di anni, ed è quello che nella stragrande maggioranza dei casi avviene. Cari ascoltatori, quando mi date del matto perché io dico stato ladro, la simmetria del rapporto tra cittadino e Stato, è stato cittadino, e che, come sapete, noi non possiamo sgarrare di un minuto sulle scadenze di quello che dobbiamo pagare, perché sennò scattano le sanzioni, eccetera, eccetera. Diventi... E uno può dire, giusto, e infatti, io non dico di no, giustissimo. Ma quando si tratta di fare il contrario, cioè quando è lo Stato a dover adempiere a delle obbligazioni nei nostri confronti, ecco, la voce del cittadino di Como ci dice quello che succede nella regola. È giusto questo? È accettabile? È segno che viviamo in un paese davvero democratico su queste cose fondamentali? Perché è una cosa fondamentale. Virginio. Perché... No, la risposta è no. Perché nel frattempo cosa fa la gente? Sta 2 anni rotti, 3 anni, 4 anni e dici no, ma io senza quei soldi campo benissimo, sono così ricco, lo Stato Virginio, fa bene non andare. Ci ha raggiunto Alessandro Di Battista che deve intervenire adesso, ma prendiamo un impegno. Lei ci chiama ogni mese e facciamo una chiacchierata qui con Oscar e ci dà il bollettino di guerra, cioè ogni mese lei ci chiama, se lo ricordi, e ci dice, allora sono passati 2 anni, 4 mesi e 5 giorni, e ogni mese cercheremo di raccontare in diretta questa noi sua storia. Noi proviamo a chiamare anche cosa Boeri è e a dirgli, ma è davvero, bisogna fare così con l'Inps? Ecco. Bene, Alessandro Di Battista, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, se ho letto poi il contatto di questo signore, io forse posso fare qualcosa nel... qualche interrogazione, ottimo. Posso riflettere su interrogazione, lo facciamo subito, perché dopo saranno contatto, per gli ultimi mesi di mandato di Battista, che ha già raccontato, annunciato pubblicamente di non ricandidarsi, quindi sicuramente diamo il contatto e lo ringraziamo per questo impegno. Ha pubblicato un libro che io ho letto, e è un libro scioccante, perché raramente un politico espone così il proprio privato, in cui racconta la sua esperienza di paternità e spiega con questa priorità, la paternità prima di tutto, anche la scelta di abbandonare la politica in Parlamento. E era, come dire, quando è maturato dentro di lei questa scelta? In realtà, Luca, io non me lo ricordavo. L'altro giorno, durante la trasmissione sulla 7, quella di Diego Bianchi, ho rivisto il mio video di presentazione e già lo dissi allora nel 2013, anzi era il 2012, e poi l'ho ribadito diverse volte, anche nel 2014 in TV, ma nessuno mi ha mai creduto. Io ho sempre voluto fare una legislatura, poi sì, mio figlio ha accelerato una decisione già presa, però 5 anni per me sono stati moltissimi, mi sono impegnato tanto. E come tu sai, prima scrivevo reportage, mi occupavo di tematiche sociali anche a livello internazionale, e ora voglio tornare però un po' a fare questo. Posso fare una domanda? Perché mentre io lo ricordavo questa cosa, l'ho sempre associato, è vero che lei l'ha sempre detto, cioè come analista e giornalista io mi ricordo che l'ha detto, ma la cosa che voglio chiedere è questa: se dovesse spiegare in sintesi, tra i due fattori, l'averlo sempre detto, cioè che non voleva la continuità del politico di professione da una parte, poi magari si fa politica altrimenti, lei l'ha detto, e si vede, la farà altrimenti, ma comunque non in Parlamento. E l'elemento aggiuntivo della paternità, quale delle due cose conta di più? Cioè, conta anche il fatto, detta fuori dai denti, che l'esperienza in Parlamento che ha fatto probabilmente, come si aspettava, non è stata un granché, perché uno entra in contatto con un modo di fare politica che è abbastanza deludente. Conta anche questo, Di Battista? No, onestamente no, perché io non considero le istituzioni una brutta cosa. Diciamo che 5 anni fa credevo che all'interno del Parlamento vi fossero tutti ladri, invece no. Ho conosciuto persone oneste in tutti gli schieramenti politici, da destra e sinistra. Ciononostante, quel che ho capito è che un po' il vizio oscuro di questo palazzo è il distacco dalla realtà. Oh. Si entra parlando dei problemi dei cittadini e poi, se non si sta attenti, si finisce a parlare di correnti, controcorrenti. Per questo il movimento si è dato alla regola dei 2 mandati, che per me è una salvezza, perché non è che evita del tutto. Le regole del Movimento 5 Stelle non è che evitano del tutto contaminazioni, per esempio. Rifletto sul candidare soltanto incensurati, però ne riducono drasticamente poi le possibilità, in un certo senso. Quel che ho visto in questi 5 anni è fondamentalmente che molti politici sono brave persone, ma poi dipendono dai finanziatori delle loro campagne elettorali. Cioè, quando io spesso ho fatto un esempio, Riva dell'Ilva, pace all'anima sua con tutto quel che ha fatto, è morto, però finanziava contemporaneamente Berlusconi e Bersani, finanziamenti assolutamente leciti, a Berlusconi diede 240.000 euro a Forza Italia, a Bersani 98.000 euro, ecco qual era l'idea di Riva, io finanzio tutti perché poi in un certo modo li controllo, infatti negli ultimi anni sono stati licenziati molti decreti salva Ilva, nessun decreto salva cittadini di Taranto, dove nel quartiere Tamburi si continua a morire ad ogni respiro. Questo è il vizio che ho visto del palazzo, per questo anche io ho preferito fare questa scelta che avevo già maturato e fare politica in un altro modo, farla di fuori dei palazzi, ma certamente mio figlio, quando ti nasce un figlio, semplicemente quel che ho visto è dai un po' più forza già alle tue aspirazioni, dici ok, se è una cosa che puoi fare, falla, perché è giusto così. Pagina 163 del libro, la prima lettera a suo figlio. Ciao Andrea, come stai? Mi pare molto bene. Un racconto in cui ci sono cose anche curiose, simboliche. Di Battista dipinge sulla pancia gravida della sua compagna il Sud America a testa in giù, perché sulla parete di una casa in Guatemala, assieme a 2 miei amici catalani, rubando da un libro galeano, lo avevo già fatto, perché il nord e il sud sono una pura convenzione. E poi questa bellissima lettera si chiude con questa epigrafe: sei nato alla rovescia, la posizione più sana per venire al mondo, sei nato alla rovescia, ma in un istante mi hai raddrizzato la vita. E Di Battista, poi arriverà anche il momento del conflitto, io ho 11 anni, già sto combattendo, quindi il raddrizzamento è anche costoso in certi momenti, è faticoso, però è bello questo entusiasmo, si sente diverso dai ragazzi, sì, della sua generazione. Per esempio mi va tantissimo di impegnarmi in questi ultimi mesi. Io mi sono impegnato tanto come parlamentare, ora posso aver fatto cose buone e cattive, più che buone e cattive no, perché mi sono sempre comportato bene, diciamo condivisibili o meno, però mi sono impegnato tantissimo e ho tantissima voglia di impegnarmi nei prossimi mesi. Per esempio vorrei tantissimo che fosse approvata la legge sul biotestamento e la legge contro i vitalizi, e mi impegnerò tanto nelle prossime settimane fino alla fine della legislatura. Tra l'altro non vedo l'ora di fare una campagna elettorale da non candidato. Forse è un qualcosa di originale, perché poi è vero, lo dico senza falsa modestia, io molto probabilmente al 90% avrei avuto la poltrona riassicurata. Certo. E per me quel che conta è che il Movimento 5 Stelle possa andare al governo, per cui mi impegnerò tanto, e quello pure che ti dà la paternità è la voglia di fare bene le cose che fai, e le farò fino alla fine, mi impegnerò in questa campagna elettorale, solo che la farò dicendo non dovete votare me perché io non sono. Senta questo messaggio che arriva, sei autentico. Dibba, non puoi lasciare la politica. Da 5 stellino lo considero un tradimento. Corrado da Milano firma, c'è il numero di telefono. Io credo di sì, nel senso che. Come sì? No, non è un tradimento. Credo che sia un tradimento, credo che sia vero questo messaggio, perché ho visto che qualcuno è rimasto anche deluso, e onestamente questo lo considero un attestato di stima, nel senso non credo che se Formigoni desse la stessa notizia riceverebbe le stesse identiche reazioni. Evidentemente mi sono comportato bene. Quel che però vorrei dire a Corrado è che tradimento ci sarebbe, come l'ho scritto, soltanto facendo quel che devi fare, non quel che vuoi fare. Lo sa che nello stesso giorno della sua notizia è uscito un retroscena, questo complicherebbe, quindi la dobbiamo fare come domanda, che dice sì, ma in realtà Di Battista già sta pensando a prendere il posto di sindaco di Roma. Sì, sì, ne ho letti tanti, Luca. Ma si sente di dire è una panzana? Sì, è una panzana. Non accadrà mai, neanche in caso di dimissioni della Raggi? È una panzana, tra l'altro non succederà neanche questo, però è una panzana. Io stimo tanto Virginia. E so quanto è difficile fare il sindaco di Roma, che per me è più difficile fare il presidente del consiglio, e vedo una serie di cose che si stanno avviando nel modo giusto, perché quando fai gli appalti pubblici nel modo giusto e trasparente ci vuole tempo, ma così non alimenti corruzione, non sale il debito di una città. Roma ha 15 miliardi di euro di debiti, quasi tre volte i debiti della regione siciliana. È veramente complicatissimo amministrarla, e vogliamo 5 anni, quindi una consigliatura, per dimostrare quel che abbiamo fatto. Poi se dovessimo fallire, i cittadini al termine del mandato non ci voteranno più. Però per tornare alle panzane, alla dietrologia, non è che mi abbiano molto toccato, però ho capito quanto questo paese sia un po' tarato mentalmente, cioè se uno fa una scelta, che tra l'altro ho sempre detto in ogni modo, urbi e torbi, partono gli esperti delle strategie e della dietrologia. Cioè, in un paese dove si è così abbullonati alle poltrone, Napolitano è entrato in Parlamento nel 1953, 64 anni fa, considerare il fatto che un parlamentare voglia per un periodo, poi nessuno mi vieta e mi impedisce di tornare e di candidarmi tra un po' di tempo. Esatto, no, ma però vederci dietro questa una strategia è ridicolo. Lo so, però quanto durerà la prossima legislatura. Lo so, Di Battista, nessuno. Però insomma, è ovvio che i retroscenisti esistono e li lasci campare. Ma come poi vivrà Di Battista economicamente? Si è posto il problema avendo anche un figlio? Cioè, di cosa campo da domani? Già me l'ha chiesto la Gruber. Ma lo richiediamo, perché non diciamo tutti hanno sentito. Diciamo che non farò mancare mai un degno sostentamento alla mia famiglia. Ho capito, ma come immagina di... Quello che facevo prima lo continuerò a fare, spero di trovare la possibilità di farmi pubblicare alcuni reportage sociali, di politica innovativa, di... Quindi come giornalista e scrittore? Più che altro come reporter, poi vedremo. Però quello che... Le faccio... Come prima mi dovevo trovare lavoro, me lo dovrò trovare... Dopo essere stato parlamentare, e mi sembra pure una cosa in un certo senso anche bella. Poi non vi nego, adesso sono conosciuto anche, ho dei social molto forti, e questo ti permette in no, ma è un avviamento qualcosa di lavoro, ma certamente, quindi secondo me è anche un buon esempio, bisognerebbe estenderlo invece della continuità ai parlamentari. Poi sono dirigenti politici, continuano a fare politica, ma la continuità in Parlamento secondo me non è un vizio. Detto questo, Ho visto proprio questo, cioè concordo con lei, nel senso, io ho visto che a un certo punto c'è il rischio appunto di appiattimento. Sì, no, ma io l'ho visto tanti anni fa nella Prima Repubblica, sono d'accordo con lei, perché al prescindere dalle forme Stato-Governo è una roba che tende anche a cristallizzare le appartenenze all'interno dei partiti e così via, tutta una serie di cose che sono tutte patologiche. Invece la domanda che faccio è l'effetto dell'esperienza del di dentro, dalle istituzioni. Lei ne ha parlato bene prima e ha detto, io ho visto che c'è gente, aveva un'idea generalista sui difetti morali della politica, poi invece c'è gente per bene, al di là del fatto che la pensa diversamente da me in ogni parte. Ma le faccio una domanda: lei nell'animo e nella pluralità delle anime dei 5 Stelle, che così è anche la forza del movimento da sempre, spiega perché prende tanti voti, perché sono tanti delusi che continuano a scegliere, hanno scelto 5 Stelle per dare la spallata al sistema dei vecchi partiti, però lei è un po' l'anima, come devo dire, non si arrabbi se la definisco così, in coerenza a quello che ha fatto lei, il reportage, l'America Latina, tutto quello che sappiamo di lei e che ci ha raccontato sempre alla radice della sua passione, è un po' come se fosse l'anima chavista, bolivarista, come devo dire, ecco, per intenderci, ma non lo dico per prenderla in giro, lo dico per capirci. Allora, la domanda che le faccio è, vista la complessità delle istituzioni vista da dentro, lei prima ha fatto riferimento ai debiti di Roma ereditati, e quelli bisogna maneggiarli con una certa cura, uno li ha ereditati, ma sono tanti ed è un guaio, bisogna sapere dove mettere mani nelle istituzioni, come ha detto lei della Raggi, sono d'accordo. Visto tutto questo in questi anni. Il bagaglio in più, che significa mettere la testa sui numeri e la difficoltà di maneggiarli, nella diversità dei punti di vista, oggi non le fa essere un pochino più critico, visto anche l'esito che alcuni regimi coerenti nel regime bolivarista ci ha visto? Penso al Venezuela, dove la gente muore di fame oggi, no? Allora, uno può dire è la CIA e l'America, e dall'altra dire, beh, forse la semplificazione di credere che quel tipo di impostazione porti al benessere e sia la risposta ai problemi, meglio rivederla un po'. E lei un pochino di autocritica, viste le istruzioni dal di dentro, i numeri dell'economia dal di dentro, sulla semplificazione di tutto il potere al popolo, oggi la farebbe, oppure sono io che sbaglio? No, però attenzione, io non credo mai di aver preso posizioni su Venezuela. Verissimo, verissimo, non le ha prese. Non le ha prese il presidente Maduro, fermo restando che molti paesi latinoamericani, ma anche paesi mondiali, subiscono delle ingerenze straniere. E io credo nella sovranità dei popoli e nell'autodeterminazione dei popoli e nella sovranità anche del mio paese, dell'Italia, e non posso tollerare delle ingerenze. Io mi sono molto arrabbiato durante la campagna referendaria perché l'ambasciatore statunitense Phillips mi si è bocca sul referendum. Cioè, questo è le mie critiche in generale di geopolitica, e quando alcuni paesi intervengono su fatti che non competono, e potrei fare l'esempio della Libia, potrei fare non c'è dubbio esempi. Però lì è un regime che fallisce e produce fame e prigionieri politici, ecco. Per amor di Dio, ma nessuno, il Movimento 5 Stelle condanna qualsiasi forma di violazione dei diritti umani a livello mondiale, per l'amor di Dio. Però sul fatto della complessità, io vi dico una cosa: la politica è difficile, sì, probabilmente amministrare è molto complesso, cioè, ribadisco, fare il sindaco di Roma per me oggi è il mestiere più difficile in Italia. Il parlamentare in realtà non è un compito così proibitivo. Cioè, alla fine di che cosa si tratta? Si tratta di valutare dei provvedimenti, valutarne l'efficacia e votarli. Io non mi sono mai vergognato di un provvedimento che ho votato, e ho parlato con parlamentari degli altri partiti che mi dicevano: sto votando una porcata, ma non posso non votarla perché me lo dice il partito. Tipo Jobs Act, tipo l'abolizione dell'articolo 18, tipo la buona scuola, tipo lo sblocca Italia e tante altre porcate che sono passate, tipo alcune leggi elettorali incostituzionali. Cioè, scusate, io non ho mai votato una legge elettorale incostituzionale. Quando arrivò l'Italicum, che tutti dicevano conviene al movimento, in effetti conveniva al Movimento 5 Stelle. E voi non l'avete votato. Valutammo che appunto si trattava di una legge incostituzionale e votammo contro. Cioè, qual è il ruolo, il lavoro di un parlamentare? Pensiamoci, votare delle leggi che ritiene giuste e opporsi a alcune ritiene sbagliate. E opporsi a delle leggi che ritiene sbagliate. Una domanda, visto che non sarà più sotto questa tagliola per le candidature, con questa legge elettorale, si discute nei 5 Stelle se sia giusto avere la candidatura nell'uninominale e il paracadute nel proporzionale. Qual è l'opinione di Battista? Non ci ho riflettuto su questa cosa, e comunque non ci riflettono i parlamentari, per un discorso semplice, perché ci sarebbe un conflitto di interesse. Noi, il movimento funziona in questo modo: i portavoce in Parlamento si occupano di leggi e del loro lavoro da parlamentari. Coloro che sono appunto Grillo, che è il garante del movimento, ha il compito di valutare le migliori regole sulle candidature, perché su queste i parlamentari non ci devono mettere bocca. Io credo questa cosa qui. Bene. Sulla legge elettorale, su come andranno, io l'ho detto tante volte, io credo che il movimento sia molto forte, e credo che in questo momento tante persone, piuttosto che rivedere alcune cariatidi politiche, ci sosterranno, soprattutto negli ultimi giorni. Credo che siamo forti, e se leggo le dichiarazioni da una parte di Renzi e dall'altra parte di Berlusconi, che sono continuamente quasi ossessionati dal movimento, cioè Berlusconi sembra un disco rotto, ha ritirato fuori gli stessi identici slogan del 94, noi siamo peggio dei comunisti, detto da uno che è un comunista, l'ha rivotato Presidente della Repubblica, no? Io oddio mio. Va bene, allora auguri, farà tante presentazioni del libro di Battista? No, farò la mia attività da parlamentare fino alla fine, poi il libro lo presenterò il 10 dicembre, però io mi dedico ancora bene. Più di prima all'attività politica. Auguri, il pensierino conclusivo di Oscar è pronto? Emiliano è sindaco di Taranto, impugnando il decreto per fare le bonifiche, credete di fare gli eroi, volete solo che resti di Stato e buttate tutto per aria per impedire la gestione dell'ILVA, vi prendete una responsabilità terribile, chiuderla. Questo è quello che volete? State sbagliando tutto. Emiliano è sindaco di Taranto. Ci sentiamo domani, cani e gatti. Ciao!